Regis. Ladies and gentlemen, start now on air, clandestino, cheat. Devi usare un pollo, devi usare un pollo, se me la vuoi, basta, tengo una minchia tanta, tengo una minchia così, tengo una minchia tanta, tengo una minchia così, devi usare un pollo, se me la vuoi, misura. Devi usare un pollo, se me la vuoi, testa. Tengo una minchia tanta, tengo una minchia così, tengo una minchia tanta, tengo una minchia così. Guarda che se la mangia, mentre se la sta, papà, chiedimi che cosa fa, se la sta a succhia. Tengo una minchia tanta, tengo una minchia così, tengo una minchia tanta, tengo una minchia. Devi usare un pollo, devi usare se la vuoi misurare, devi usare un pollo, se me la vuoi testa. Tengo una minchia tanta, tengo una minchia così, tengo una minchia tanta. To this day I don't know what he's talking about. Minchia tanta. You suck my fire. Oh yeah. Guarda che se la mangia, tengo una minchia così. Guarda che se la mangia, mentre se la sta papà, chiedimi che cosa fa. È chiaro, se la sta succhiando. Se la sta succhiando, dale, dale, dale, look at your sisters, do something like that, thanks. Devi usare un pollo, devi usarlo per misurare, così me la potrai succhiare. Stereo. Jesus. Buonasera, buonasera, si ritorna come ogni lunedì 22:15 fuori Onda Radio Clandestino Cid. Questa sera una serata un po' schifosa dal punto di vista meteorologico, perché proprio sta buttando giù di tutto. Però noi siamo sempre presenti, sempre Cid, il nostro spirito non cambia mai. E siete qui in ascolto con il vostro Ciccio, che vi va subito a presentare l'ospite tanto gradito direttamente dall'Honduras. Abbiamo David Pivar. E la sala macchine, il nostro DJ and speaker di fiducia. Vai, Pep. Ciao, buonasera a tutti. Va bene, che dire, sarà una bellissima serata, gli ospiti sono anche attivissimi. Salutiamo subito Ivi, che ce lo chiede dal Guatemala, e per iniziare passiamo il prossimo pezzo, Pep. Yeah. E riparte Clandestino Cid 22:20 fuori Onda Radio. Allora, andiamo subito con la nostra intervista settimanale all'ospite. David, tu da dove arrivi? Poi sono arrivato dall'Honduras 3 mesi fa. Sto qui per studiare la scienza politica e la relazione internazionale. Ho studiato prima di questo sociologia nell'Università Nazionale Autonoma di Honduras, che è l'università pubblica dell'Honduras. Perché scegli l'Italia e in particolar modo la Calabria? Ma due senso. Il personale, perché credo che è fantastico nel senso politico e internazionale. La Calabria come un luogo geopolitico, la Grecia, la Spagna, l'Africa, Medio Oriente. Questo è più importante per la conoscenza geopolitica nel senso accademico. È un altro senso perché l'università pubblica bisogna di un progetto di professore per fare scienze politiche e sociologia, e l'università ha fatto questa convenzione con la UNICAL per fare professore a futuro. Capisco. Sostanzialmente ti stai trovando bene qui in Calabria, cioè a livello didattico, interazioni con le persone, dici un po'. Sì, il sud dell'Italia è molto simile a Latino America, nel senso della la gente è più calda, più amorosa, no? Saranno i Red Hot Chili Peppers. È possibile, il peperoncino. Va bene, Peppe, tu vuoi salutare il nostro ospite? Va bene, lo saluto pure io, però boh, non lo so. No, diciamo che la farò più tardi la domanda. Dai, partiamo con il prossimo pezzo. Con Anthony Hamilton e Liana Bynton. On my shoulders, pressure to break or retreat at every turn. Facing the fear that the truth had discovered, no telling how all this will work out, but I've come too far. Looking for freedom. Ok, siamo noi. Ripartiamo sempre dal nostro ospite. Niente, David, ci parli un po' dell'Honduras. Ma l'Honduras è un paese troppo complesso. Adesso, 3 anni dopo il colpo di Stato del 2009, la situazione è macabra. Siamo il paese con maggior muerte del mondo, senza guerra declarata. Abbiamo abbastanza più morte che Siria, ad esempio. Questo è difficile nel senso politico e della vita mia stessa, perché non abbiamo una guerra civile, una guerra civile. Abbiamo un, tra virgolette, stato di diritto, ma non c'è questo. Il percentuale è 92 morti per 100.000 abitanti. Sì, è più pericoloso la vita in Honduras. La cosa sorprendente è che comunque i vari giornali non parlano di questo. Specialmente in l'Italia, perché la unica figura, l'unico referente dell'Honduras che voi avete è la Isola dei Famosi. Che notiziona, ragazzi, applaudito da casa. L'Isola dei Famosi, bene, che cosa bella, c'è da dire. In un paese dove c'è tanta mortalità, andare a spendere così tanti soldi per fare un programma spazzatura proprio. Che considerazioni hai per il futuro del tuo paese? Cioè... Questo è più divertente per me, perché la gente conosce l'Honduras per questo programma. Mi hanno detto ogni volta... porca miseria, tu sei di un paradiso, che tu stai facendo qui? Ma io sono studiando, però non c'è il paradiso che il programma mostra. Uno dei tanti paradisi artificiali, questa volta però sponsorizzati in TV. No, è proprio un paradiso, è bello, è bellissimo il Caribe, però la situazione, non abbiamo un stato di diritto. La violazione dei diritti umani è abbastanza grave. Vabbè, no, la cosa... A noi ci arrivano soltanto le notizie, non lo so, sta male qualcuno nell'isola, viene puntato una zanzara oppure così, ma purtroppo non sappiamo a livello nazionale, cioè perché è la TV nazionale che trasmette... in prima serata anche dall'Honduras, purtroppo non arrivano determinate notizie. Come vivete voi giovani questa situazione? Cioè, vi siete organizzati in qualche modo? Ci sono organizzazioni varie, collettivi? Sì, dopo il colpo di Stato si è creato l'organizzazione, il movimento sociale abbastanza il più grande, il più grosso di tutta la vita politica dell'Honduras. Io ho lavorato con questo movimento sociale, il Frente Nacional de Resistencia Popular, che è il braccio del movimento sociale, e adesso abbiamo fatto un partito politico per il potere, per trovare il potere. Questo anno abbiamo le elezioni e troviamo qualcosa in questo senso. Ci sono tanti schieramenti politici per queste elezioni oppure? Prima del colpo di Stato abbiamo un sistema bipartitista, ma adesso abbiamo 9 partiti politici. Uno dell'esercito che ha dato il colpo di Stato, 2 partiti tradizionali, altri partiti, ma il partito si chiama Libertà e Refundazione. questo partito avevo paura alla istituzione politica tradizionale, perché è tanta gente che bueno, aveva interessi comuni nel movimento sociale. Per i nostri ascoltatori potresti delineare, non lo so, la linea storica che ha portato al colpo di Stato poi in Honduras? Il 28 de giugno del 2009 hanno fatto questo colpo, un colpo non è nel senso normale di altri colpi di Stato. Questo colpo è fatto per il potere legislativo e l'esercito e il giudiziario. Questo è un nuovo senso, una nuova maniera di fare un colpo di Stato. E dopo di questo abbiamo sei mesi di un governo de facto, dove il presidente del potere legislativo ha sido eletto presidente dopo il colpo, e molta repressione dopo il colpo di Stato, una negoziazione tra l'Organizzazione degli Stati Uniti, Nazioni Uniti, e l'Organizzazione degli Stati Uniti Americani hanno trovato una risoluzione per il ritorno della democrazia all'Honduras, il ritorno, come ho detto prima, tra virgolette, al Stato di diritto. Questo non è successo. Sì, abbiamo una elezione in il novembre del 2009, ma elezione sotto la repressione dell'esercito, sotto la repressione della polizia, la gente ha paura, no, non vota. E dopo di questo l'Organizzazione degli Stati Uniti, la Unione Europea, l'Organizzazione degli Stati Americani hanno accettato, hanno ricevuto a Honduras dopo questo. Tre anni dopo abbiamo la violenza, abbiamo la repressione. Quindi diciamo che c'è stata l'influenza degli altri stati, diciamo gli stati maggiori. Sì, gli Stati Uniti. Noi abbiamo la terribile pazienza storica di essere il portaereo degli Stati Uniti per fare rivoluzione in Nicaragua, per fare contro-rivoluzione in Nicaragua, per fare contro-rivoluzione in El Salvador, in Guatemala. Questa è la nostra storia. Paladini del mondo, gli Stati Uniti d'America, dove c'è guerra, vanno loro a difendere i diritti dell'umanità, come hanno fatto in Iraq, in Afghanistan. Però diciamo che quando si muovono gli Stati Uniti c'è un motivo dietro, hanno sempre qualche interesse, altrimenti non ci vanno. Nel senso latinoamericano, lo che è successo nel Sud America è lo che ha trovato la paura degli Stati Uniti. Questo scambio democratico dell'Argentina, di Bolivia, di Venezuela, del Paraguay, che hanno avuto un colpo di Stato l'anno scorso, questo è la stessa storia che si ripete. Una storia sbagliata, come scriveva De André. Va bene, passiamo il pezzo del nostro ospite. Magari ce lo presenti tu, Davide. Questa è una banda dei miei amici honduregni, si chiama Café Huancasco. Huancasco è un rito etnico del scontro di due popolazioni per fare la pace. Questo è il Renacimiento. We'll be right back. de las prostitutas, con los niños que nunca nacieron, con los hijos desaparecidos, de las madres de Plaza de Mayo, con un niño soldado africano, con los hijos de los pordioseros. Si naciera y viviera de nuevo, gritaría unas cuantas blasfemias, quemaría todas mis mudadas, esa ropa de marca importada, pintaría unos cuantos carteles de las curvas manifestantes, leería cientos de panfletos de filósofos beligerantes. Metrallas y tanques, aunque poco le temo a la muerte, necesito unos jodidos días para empezar a sentirme vivo, para morir creyéndome. Canciones de Charlie, besaría la Cecilia de Fito, procuraría nunca embriagarme sin las tristes canciones de Enrique, puliría mi alma de diamante con las cuerdas rasgadas de Silvio y elegías de otros gigantes. Oh, ritorniamo dopo questo magnifico pezzo direttamente all'Honduras, all'occupata P2, fuori onda radio clandestino CID. Davide, hai ricevuto tanti apprezzamenti per questo pezzo, mi è piaciuto a tantissime persone. Invito tutti i nostri ascoltatori, se c'è qualche quesito da porre al nostro invitato, che è possibile comunque interagire con noi. Ok, David, ritorniamo in Honduras. Quindi si preparano queste elezioni per il nuovo stato, diciamo. Il pensiero popolare, cioè quello che la gente pensa effettivamente, cioè pensa qualcosa di positivo, vede tutto grigio, cioè, oppure ha poche speranze, cioè come si è divisa la popolazione, oppure c'è una buona maggioranza che comunque lotta per i propri diritti, per un nuovo Stato. Una situazione di classe questo, però il presente è nero, il futuro abbiamo la speranza, abbiamo che lavorare per fare un nuovo Stato, una nuova condizione di diritto, di diritti umani in un senso più diverso. Il movimento sociale aveva la gente, aveva la conoscenza, aveva una storicità. Nel suo stesso senso di come il pensiero si è sviluppato in tutto questo tempo. La prima rivoluzione della Latino America in Guatemala ha sido distrutta per questo, per la speranza, che la gente aveva, che la gente vogliono un futuro diverso al presente stesso. Un futuro diverso, sì, però come accennavamo prima, c'è sempre comunque quell'ombra che da voi vi arriva dal nord, che si chiama America, che comunque influisce tantissimo. Sì, però la Latino America aveva adesso un gran scambio. Il sud mostra la via, il cammino per fare questo nuovo orizzonte, questa nuova forma di concepire la vita. L'Honduras, come tanti altri paesi dell'America Latina, ha subito un processo di colonizzazione da parte della Spagna, no? Come la gente come ha vissuto questo periodo, cioè nella storia, se si è portata via la propria tradizione, la propria cultura, oppure è stato un processo di arricchimento in un certo senso, sempre tra virgolette. Il caso honduregno è speciale perché i gruppi etnici erano dispersi in tutto il paese, ma questa non è la storia. Ad esempio, Guatemala, che aveva un 42% della popolazione indigena, o Bolivia, o Ecuador, o Perù, che aveva un gran maggioranza di aggruppazione etnica per tutto il paese. Ma la Honduras è una popolazione complessa nel senso la colonizzazione ha trovato il criollo, la mixtura della cultura. Abbiamo perso tanta lingua locale. È importante dire che il Stato stesso non ha lavorato per conservare la cultura propria del paese. È interessante perché noi chiamiamo questo la mayanizzazione della cultura. è divertente adesso pensare nel fin del mondo, che tutta la gente ha il senso sbagliato che il 21 di dicembre i Maya hanno detto che il fin del mondo non è certo, non è la cosa come los Mayas hanno detto. Questo senso sbagliato il Stato stesso ha contribuito a sbagliare la visione, la cosmovisione Maya. Sicuramente ci saranno stati altri interessi dietro, no? Che pensi tu per questo 21 dicembre, una data fondamentale, sentita da tutto il mondo? No, lo che i Maya hanno detto è il cambio di un Baktun a un altro Baktun, che da un tempo a un nuovo tempo. Questo è un pensiero bellissimo, ma la gente non ha capito. Beppe, tu per quel 21 dicembre so che avevi pronto un bunker e una dispensa piena di prodotti locali, no? Per salvarti, Beppe. Volevi essere il nuovo re del mondo, il nuovo messia, Beppe. No, non volevo essere il nuovo messia, niente. Quel 21 dicembre stavamo mangiando a casa mia, forse c'eri pure tu, Ciccio. Ci siamo bevuti 5 litri di vino. Ce ne siamo sbattuti altamente alla fine del mondo, mi sembra. No, i Maya in pratica dicevano che il 21 dicembre là, finisce come il nostro 31 dicembre di ogni anno. Loro avevano un modo diverso di calcolare gli anni, che si basava sul lungo computo, quelle cose là, che non so come si chiamano. E noi invece diciamo che ogni anno, infatti, si rompono i piatti, si spara col fucile dalla finestra a Capodanno per inaugurare il nuovo anno, e poi muoiono tante persone in mezzo alla strada pure per questi colpi di fucile. I Maya avevano forse il disco era troppo piccolo quando hanno fatto il calendario, è arrivato là. Non lo so. Vabbè, non lo so, Cic, tu che vuoi fare? Facciamo una festa. No, vorrei sapere da David l'impatto religioso su questo evento pure del 21 dicembre. Principalmente, come penso in tutta l'America Latina, è sentita tanto comunque la condizione religiosa. Non vorrei parlare di potere, ma alla fine anche questo è un potere. Come è subissuto? La religione ufficiale dell'Honduras è cattolica. Questo è frutto della Spagna, della colonizzazione. Ma come te hai detto prima, il caso boliviano, il caso guatemalteco aveva un senso diverso a questa paura del fine. È così, è il Stato che ha conservato la cultura, la religione, la gente stessa ha un visto differente a questo senso del fine. E tanto per introdurci comunque nel tema adorato noi di clandestino, la religione, cogliamo la scusa per, anzi non la scusa, proprio il filone per salutare il nostro indignato da Roma, Tarlo, e le vaticanate. Abbiamo una notizia che è una notizia triste per quello che mi riguarda, perché guarda che è successo in una scuola veneziana. Praticamente un professore di religione in una lezione afferma che i gay vanno curati. Questo è successo dopo che c'è stata comunque l'esibizione delle Femen all'Angelus domenica scorsa. E comunque, invece di fare un passo avanti qui, diciamo che ne abbiamo fatto 100 indietro, ritornando forse nel 900-800 del tutto, perché comunque, mentre negli altri paesi già si sente parlare comunque di dare il diritto alle coppie gay di sposarsi, qui in Italia purtroppo, data l'ombra sia americana che in questo senso non aiuta lo stesso, però dello Stato Pontificio è qualcosa che fa davvero paura, paura perché comunque si innesca una fiamma razzista anche nei confronti di queste persone che vengono sempre di più ghettizzate e viste, non lo so, come i mostri del nuovo secolo. David, voi come le parole? Il caso honduregno, un'altra volta. Per morire in Honduras, tu tieni che stare tra 20 e 30 anni. Devi essere studente, giornalista, attivista dei diritti umani. Questa è la popolazione che ha troppo paura della repressione, della violenza. È il stesso caso il senso honduregno, la Chiesa Cattolica aveva abbastanza potere nel caso legislativo, nel caso giudiziario. Dopo il colpo di Stato abbiamo avuto un retrocesso nel senso della legge. Ad esempio, la pillola del dia dopo, del giorno dopo, ha sido vietata. Questo è un retrocesso incredibile per la popolazione, per le donne. Ebbè, come lo stesso caso dei profilattici che continuano il Papa a dire che sono la mano del diavolo, e in Africa è una malattia quale l'AIDS continua a stremare vite. E non lo so quando cambierà questa cosa, se cambierà. Ma bisogniamo lavoro, lavoro politico, lavoro ideologico, lavoro culturale, tanto lavoro per fare. La cosa positiva, David, comunque, è che i miracoli sono veri, è qualcosa di vero. Non lo pensi così? No, sono frutto del lavoro, del frutto del lavoro. Però frutto del lavoro, qua abbiamo una testimonianza di un 52enne miracolato. Praticamente c'è stato questo 52enne che dopo che praticamente ha fatto visita alla cittadina di Medjugorje, praticamente ritornando a casa ha affermato: non capisco come abbia potuto credere a tanta assurdità per tutti questi anni. Possiamo dire che è un miracolo questo, no? Non lo so. Va bene, Peppe, tu sicuramente hai tanto da aggiungere. Non c'ero mai stato io a Međugorje, cioè, penso che è in Croazia, no? O in Bosnia. In Croazia, forse. Nemmeno a Fatima, a Lourdes, però secondo me ci potremmo inventare anche noi un'apparizione qui, da queste zone, così facciamo aumentare il turismo. Perché chissà perché in queste città, dopo queste favolose apparizioni di Madonne e altre divinità, c'è il turismo è incrementato e... Diciamo che le aziende locali, cui albergatori, ristoratori, hanno avuto stanza dei benefici. Non vorrei che dietro queste apparizioni ci sia qualche pensiero di lucrare. Tu come la vedi, David? No, non capisco il senso aziendale. Vabbè, passiamo al prossimo pezzo. David, ce lo presenti. Questa canzone è una canzone della decada dell'80, una canzone... per il conflitto tra la guerrilla in Guatemala e l'esercito, è una canzone pacifista. Alush Nawal, Alto al Fuoco. Parlando di Lourdes, un saluto al nostro figliolo dalla Francia. Ciao Adri. centroamericano. Clandestino Cid ritorna sempre lunedì puntualmente. Non diamo soddisfazioni a Radio Maria. Salutiamo Maria, la nostra Maria. Speriamo che ci sta ascoltando. Comunque, dall'Honduras, trattando tema filocolonialista, ci spostiamo subito nel Mali. Lì vicino, diciamo, sì, passiamo l'oceano e ci troviamo nel Mali. Nel Mali che in queste ore, in questi giorni, comunque si è riversata nuovamente lo spirito malo della guerra da parte di chi sostiene di salvare qualcuno, sempre contro il terrorismo, questa... Un terrorismo che fa terrore in un certo senso, no? Sentirlo sempre in televisione, anche il fatto stesso di guardare un islamico molte volte dice può essere un terrorismo. No, invece no, non tutti sono terroristi, anzi i veri terroristi sono coloro che vanno lì magari a svolgere attività belliche. E il nostro saluto va a tutti i fratelli musulmani che ci stanno ascoltando. Che cosa succede quindi nel Mali? Nel Mali arriva l'esercito francese e penso che sarà aperto pure quello italiano, no Pep? Ancora no, forse. Comunque per cancellare l'ombra terrorista. Io passo la parola a David e dopo successivamente Pep per commentare la situazione. Prego David. Che possiamo dire, la situazione che oggi ha ascoltato Eritrea è un colpo di stato in Eritrea, è la stessa cosa, hanno ucciso i giornalisti perché noi non ascoltiamo questa notizia di un colpo di stato in Mali. È più difficile pensare in questo senso di come è possibile trovare questo in Africa adesso, la situazione, la violenza è storica, in certo senso una causa diretta della irruzione europea in Africa. triste, non lo so. Peppe, metti la palla. Allora, diciamo che giustamente la Francia è andata in Mali a combattere questi terroristi, questi pericolosi terroristi islamici, gli stessi che c'erano in Afghanistan, gli stessi che troviamo in qualsiasi posto dove c'è uranio, petrolio e altre risorse che, guarda, per sbaglio si trovano là queste risorse. I francesi sono andati lì per difendere gli interessi dei cittadini maliani, non è vero che sono andati lì perché è uno dei posti più ricchi di uranio al mondo, è un posto ricco di petrolio, gli interessi francesi quella zona africana sono fortissimi, gli interessi commerciali, non è vero, queste sono tutte falsità che si dicono in televisione perché si è contro la Francia e contro queste povere nazioni occidentali che vanno a fare il bene degli africani in Africa. Oh no, Ciccio, non è così? Sì, beh, purtroppo è così. Ci sono questi terroristi cattivi che ogni volta si vogliono... Non lo so che vogliono fare questi terroristi, però ci sono, secondo loro. Loro ogni volta che vogliono andare in una zona ricca di risorse si tira in ballo il terrorista. C'è il terrorismo, così. Poi può essere pure che non ce n'è nemmeno uno lì terrorista, però usano questa strategia per la diffondono nelle televisioni, così la gente si convince che gli iraniani e gli islamici in generale sono pericolosi terroristi e quindi si va alla conquista, nuovamente alla conquista dopo il 700-800 che si è stato in Africa, si è imposta la lingua francese o inglese o italiana pure in alcune zone, belga e cose varie, si va a conquistare di nuovamente questo continente africano, tanto là si stanno zitti, non gliene frega nessuno, basta che dai un po' di soldi a qualcuno che scatena una guerra e fa una guerra civile, gli dai qualche arma e si ammazzano tra di loro e sono tutti contenti. Sì, sostanzialmente il fatto è che comunque, come dicevo prima, è un terrorismo che incute terrore, chi ascolta la notizia. Nella nostra prima puntata della nuova stagione, Davide, c'è stato un ragazzo che salutiamo, Ahmed, dalla Palestina. E fu lui a lanciare proprio queste parole, tipo The War of News, la guerra delle news. È proprio quella che comunque porta in un certo senso a credere, ad illudere la gente del fattore stesso e anche a giustificare la guerra in determinati posti, perché comunque l'America in quel caso, come in questo caso sempre, perché comunque non ci dimentichiamo che c'è un'organizzazione, ci sono organizzazioni unite che comunque lavorano su tutto il territorio internazionale e io mi chiedo dove stanno, no? Cioè si parla tanto di pace, di solidarietà e poi si va ancora innanzitutto in uno stato così di economia aggravata come questa, una crisi che sta affliggendo tantissime persone, si va a spendere ancora di più su un mercato che è quello delle armi per far cosa? Lo che io può dire è il caso latinoamericano. Non abbiamo un terrorismo nel senso del stesso discorso del che stiamo parlando, però questa guerra che noi abbiamo in tutta Latinoamerica è contro contro la droga. Questo è il terrore degli Stati Uniti. Però gli Stati Uniti è il consumatore, il maggiore consumatore della droga colombiana. Noi siamo in Centro America il ponte dove la droga brucia per arrivare agli Stati Uniti. Questo è il stesso discorso, della guerra, della democrazia, degli interessi aziendali, economici in ogni paese della Latinoamerica, però con il punto di vietare o evitare la droga, il croce della droga per gli Stati Uniti. Diciamo che nascondendosi dietro la parola quale democrazia, si lasciano comunque ampio spazio ampio spazio e trovando sempre un pretesto quale sia la droga, un pretesto quale sia, non lo so, il terrorismo islamico comunque. A pensare che, David, qui in Europa il porto dove viene smerciata la droga dalla Colombia stessa è quello di Gioia Tauro, qui in Calabria, e non ne arriva un grammo, non ne arriva un chilo, ne arrivano tonnellate e tonnellate. Ma a volte mi viene, cioè, proprio l'idea per dire, ma tonnellate e tonnellate di droga, no? Ad arrivare qua, tipo in Calabria, essere smerciate in tutta Europa, ma possibile che è così difficile fermare un circolo del genere, oppure ci sono tanti interessi dietro? Sì, è lo stesso nel caso latinoamericano. No, noi abbiamo il grave errore di stare sotto gli Stati Uniti e di essere questo ponte della droga. Noi non consumiamo la quantità di droga che consume gli statunitensi. Questo discorso fa schifo. Sì, hai ragione, fa proprio schifo. Riguardo, vorrei comunque ricordare un uomo che disse al tempo no alla Big Hand, alla grande mano, all'America, Thomas Sankara del Burkina Faso, che comunque riuscì in qualche modo a ostacolare, anche se per poco tempo, la buona faccia del colonialismo, di cui abbiamo parlato adesso, e che risollevò i diritti del proprio popolo. Da ricordare che non fu un dittatore, ma un uomo che credeva nei propri ideali, facendo il proprio popolo una nazione, cercando in qualche modo di costruirla, anche se purtroppo fu ucciso. Il Che Guevara africano, no? Sì, abbiamo diversi figuri comunque. Thomas Sankara. Peppe, another song, another one. Va bene, Rolling Stone. Clandestino CID 2315 su Fuori Onda Radio. E a proposito del famoso, della famosa grande mano, il nostro, la nostra forza, un po' andare, che gli abitanti della Sicilia che stanno continuando a lottare contro le antenne militari americane MUS, che è stata comunque un'idea quanto bizzarra. Abbiamo una vignetta che cita il mostro Saddafa. Comunque ci sono stati scontri e niente, lo Stato evidentemente non bada tanto alla, alla salute dei propri cittadini, ma anzi permettiamo il, la costruzione di queste antenne che porteranno sicuramente il beneficio allo, al governo americano e successivamente alla salute dei, dei siciliani. Ok, David, ci sono altre tematiche, chissà quante altre ne avremo, ma se te la senti salutare qualcuno puoi farlo tranquillamente. No, dice che non conosci tanta gente. Peppe, sicuramente diremo anche la nostra e la nostra è Nomus, Notav. Lottiamo per i nostri diritti, lottiamo per il nostro popolo. Partiamo con un altro pezzo. Vabbè, intanto salutiamo un pochettino di amici che ci ascoltano. Salutiamo Lorenzo Blues, come al solito, i ragazzi del server, Antonietta, Adrian, ce l'abbiamo salutato. Salutiamo, non so, c'è Giovanni se ci ascolta, Pierpaolo da Livorno, Emiliana, Angela, Andreuccio da Cosenzia, e tutti Natale se ci sta ascoltando, da casa mia, Luigi Rizzuti, pure da casa mia se ci ascoltano Michele, Papeo, Daniele, Gennaro, Rino, soprattutto Rino, il nostro mitico Rino, che speriamo che abbia il cappello in testa come al solito. Ce l'ha? Cappucci, cappelli e tutto. Stefania De Masi pure, da Pallagorio. E niente, mandiamo un pezzo dei, dei Beatles. O dei Negrita, Ciccio, cosa vuoi? E andiamo con i Beatles, dai. Siamo nuovamente in studio. Si chiacchierava dei potenziali campioni a livello calcistico qui all'Unical. Dato che abbiamo citato l'Unical, David, tu che comunque studi in un altro paese, le tue considerazioni su questa università, tu che vivi nelle residenze dell'università, cosa va migliorato? Un consiglio magari, e le tue considerazioni naturalmente. Ma io abito nella favela del centro residenziale, più lontano io cammino 25 minuti per arrivare a lezione, abbastanza lungo. E l'altra cosa che vuoi dire è che io non ho internet, non lo so come può studiare senza internet, però questo è la mia realtà adesso. Il fatto che tu debba impiegare 25 minuti per andare a lezione è una conseguenza dei tagli che ci sono stati all'università, perché fino all'anno scorso c'era la navetta che si faceva tutto il ponte, davanti e indietro sempre. Siccome hanno tagliato l'istruzione da parte del governo, dopo le riforme che vengono dal 2008 all'anno scorso, non ci sono più soldi, quindi l'università ha dovuto tagliare su alcuni servizi come la navetta. E appunto per questo l'aula P2 è occupata dal 2008 in seguito ai tagli del governo di 1.500 milioni di euro in 5 anni, che stanno distruggendo l'università pubblica italiana e la stanno portando a questo stato che è attuale, che sembra buona ma in realtà non lo è, perché ci sono tantissime carenze dentro l'università. Parlaci. No, vabbè, sicuramente ci sono state anche le passate lezioni qui all'Unico, non so se hai votato tu, David. Comunque si parlava tanto, non lo so, delle lezioni, di aule che non esistono, di corsi fantasma, no? Purtroppo la cosa che più fa male è, penso che non sia qualcosa di inimmaginabile, cioè pagare le tasse per avere un servizio oppure per migliorarlo, no? Cioè penso che sia questo tutto. Qui il fatto invece è che si pagano le tasse ma si hanno pochissimi servizi, anzi quelli che ci stanno vengono tagliati del tutto. Nel caso mio può dire che è troppo diverso alla mia realtà nella mia università pubblica dell'Honduras. Noi non abbiamo un centro residenziale, noi non abbiamo un wireless system. Questo è diverso, però questo è frutto del sottosviluppo e il che viviamo in Latino America. Però nel senso didattico, io posso dire che per me questo sistema di insegnanza italiano è abbastanza diverso del sistema del Latino America. Noi non abbiamo il monologo tra il professore e lo studente. Questo per me è la prima volta questa esperienza è unica. Ho parlato con diversi professori, bravissimo, almeno qual lezione ho fatto, però sì, è più diverso il ragazzo italiano, il studente italiano scrive tutto, non parla con il professore, no? Non è un dialogo, questo è diverso. A proposito di diversità, non lo so, ma anche di innovazioni, qui la nostra ascoltatrice Stefania ci dà qualcosa di nuovo. A proposito di elezioni, sai che l'Italia sarà chiamata alle urne il 24 e 25 febbraio, non lo so, qualcosa del genere. 30 e 31 febbraio, dice Beppe. A proposito, conosci la situazione italiana? Sì, penso sì. Due parole, dai, te le permettiamo. No. Di che cosa? sulla situazione politica italiana. Ma io sono andato a guardare, a ascoltare Vendola e ascoltare Bersani e ascoltare Berlusconi in la TV. È interessante. Non può dire ma cosa perché non lo so, non tengo tanta esperienza qui. Possiamo parlare secondo te di una Banana Republic? No, il Banana Republic è l'Honduras. Comunque, dato che l'hai citato tu stesso, c'è Vendola che comunque si rivolge al governo. Monti e che presentino una proposta per consentire agli Erasmus di votare. Non lo so, sono cose allucinanti. Comunque, vabbè, se avendo la, cioè avendo la, che gli Erasmus vanno a votare pure, Pep. Guarda, ma, per sfortuna non sto facendo l'Erasmus, se no sarei stato contentissimo di non andare a votare in questo momento in Italia, dato la scarsità di idee che hanno i politici italiani e la politica che fanno, che è abbastanza simile tra di loro. Ma non lo so, non so che dire quando vedo spettacoli tipo quando Berlusconi va a parlare in televisione, sembra, io lo vedo soltanto perché mi, tipo Zelig, mi sembra una commedia, cose assurde, dicono cose assurde, lo stesso Bersani, lo stesso Grillo che è il primo pagliaccio in assoluto, Grillo il re dei qualunquisti, che addirittura ha aperto le porte a Casa Pound, un gruppo di fascisti, nel loro movimento, proprio cose dell'altro mondo. Vabbè, l'Italia purtroppo è la Repubblica delle Banane, ma non vedo che anche l'Honduras è lo stesso, quindi diciamo che in tutto il mondo, è paese, quindi... E il che non mi fa sorridere, purtroppo questo è il problema del mondo, purtroppo se continuano ad andare avanti questa classe dirigente nel mondo faremo soltanto dei passi indietro, non progrederemo mai. Tu come la vedi? Non lo so perché non so che tu conosci come il Banana Republic. Il Banana Republic nel caso nostro è l'economia dell'enclave. Noi abbiamo banana, troppo, abbastanza banana. Questo ha fatto la prima volta dell'arrivo degli interessi degli Stati Uniti al nostro paese. Questo ha fatto un scambio nella storia del nostro paese. È lo stesso in Ecuador, lo stesso in Venezuela, nel caso del... non c'è banana, però c'è petrolio. Il caso guatemalteco, eccetera. Sì, ne abbiamo parlato nelle scorse puntate del fattore del mercato nero delle banane dell'America Latina. Sì, ma qua intendiamo proprio Banana Republic, proprio nel senso la banana intesa come persona, cioè metaforicamente parlando. No, il fatto, Peppe prima parlava dei vari programmi che stanno comunque riportando alla luce lo spirito nero, qui Berlusconi, un nuovo terrorismo comunque psicologico da parte della gente, e vorrei comunque sottolineare una cosa, anzi dirla del tutto: Santoro sotto zero. Detto questo, passiamo al prossimo pezzo, David ci saluta, deve andare via. Ti ringrazio tantissimo per essere stato qua. Passo la parola a Peppe per i dovuti ringraziamenti e a presto. Saluto pure io David che viene dall'Honduras. Mandiamo l'ultimo pezzo che farò illustrare a lui. Questo è musica dell'Argentina, è una canzone che parla della crisi del comincio della decada del 2000. Questo è Bersuit Vergarabat, si chiama Señor Cobranza. Voy a la cocina, luego al comedor, miro la revista y el televisor, me muevo para aquí, me muevo para allá, no me habla a caballo, lo tienen que matar, que me vienen con chorizo, pero ya va a llegar, que cocinen a la madre de caballo y al papá. papá y a los hijos, si es que tiene, o a su amigo el presidente, no le deje ni los dientes, porque Menem, Menem, Menem se lo gana, y no hablemos de pavadas, si son todos traficantes. Y si no el sistema, ¿qué? Y si no el sistema, ¿qué? Se mantiene con la plata de los pobres o solo sirve para mantener algunos pocos. Transan, venden y es solo una figurita el que esté de presidente, porque si estaba Alfonsín, el que transa es otro Gil, son todos narcos de los malos. Si te agarran con un gramo después que te la pusieron, se viene la policía y seguro que va preso. Y así sube la balanza, el precio también sube, la venganza. Ahora va, y ahora que son todos narcos, y el presidente es el tipo que mantenga más tranquila a nuestra gente. Lleva plata del lavado, mientras no salte la bronca del norte, nos mandan palo. Ay, ay, ay, uy, uy, uy, que me dicen del dedito que le meten que Jujuy. Ay, ay, ay, uy, uy, uy, que me dicen del dedito que le meten que Jujuy. Siamo tornati qui online, sempre nello studio dell'aula più occupata, Clandestino Cid, sempre su fuoriandaradio.altervista.org. Un saluto a Pierpaolo che ci ricordava non votare Fez. Ricordiamolo sempre. Che purtroppo il diritto al voto conquistato nel passato ormai si è andato a farsi strafottere, quindi che cazzo se lo fa fare di andare a votare quando dobbiamo scegliere tra il meno peggio e non per un vero ideale. Quindi il mio consiglio è di non andare a votare, poi fate quello che volete. Ciao Cicci. Sì, Peppe, condivido il tuo pensiero. A proposito, rinnovo quello che dicevamo prima, praticamente per quanto riguarda il fatto di andare a votare, a appallarsi al decreto del Presidente della Repubblica, che è quello. Questa volta ci dovrebbe essere la notizia giusta, se la troviamo. Sì, no, per quanto riguarda, perché sto leggendo tantissime cioè è tantissime volte che lo leggo e la gente ha frainteso quello che realmente dice. Praticamente sì, abbiamo trovato, ci siamo. Si parla del decreto del Presidente della Repubblica del 30 marzo 1957, numero 361, articolo 104. Praticamente gli articoli che ho letto è questo: non votare si può, mi è arrivata questa email, io non sapevo. Allora ragazzi, praticamente qui non si tratta di appellarsi al decreto del Presidente della Repubblica del 30 marzo del 57, articolo 104 e così. Non votare, praticamente si parla di non toccare praticamente la scheda elettorale e mettere a verbale le motivazioni. Le motivazioni in questo senso si parla, è sottinteso il fatto delle negligenze nella sede di voto, no, del tipo che io non voto perché tipo questa classe politica non mi appartiene. Se tu pensi che la tua classe politica o la classe politica che c'è nel nostro paese non ti appartenga, cioè non dà libero spazio al tuo pensiero, non puoi appellarti a questo decreto, ma è meglio stare a casa, anzi sensibilizzare le persone, che non vuol dire con questo essere succube di un voto che andrà a far vincere, non lo so, qualcuno o qualcun altro, perché comunque la sensibilizzazione, Peppe, è sempre un'arma che abbiamo nelle nostre mani, no? Comunque spiegare alle persone che sta succedendo, spiegare alle persone che vieni proprio tartassato di tasse non avendo un servizio pubblico. In Italia non esiste il servizio pubblico, ce lo vogliamo mettere in testa? Vengono spesi milioni e miliardi per avere cosa? Strade senza asfalto, autobus che non passano mai, orari delle lezioni che non esistono. Andare in un ufficio pubblico e se non hai comunque qualcuno che ti porta in braccetto oppure un bel calcio nel sedere, non vieni valutato, anzi vieni proprio escluso a priori. Quindi cari ragazzi, se quel giorno andrete a votare e vi appellerete a questo decreto, ricordate che è soltanto per le negligenze sulla sede del voto, non perché ci sono comunque motivazioni sicuramente valide che non vi portano a votare. Detto questo, Peppe, io lancio una freccia che ci porta comunque sul sito più cliccato del mondo. Google, perfetto. Praticamente Google cosa dice? Non siamo assassini di asini, ve lo volete mettere in testa? Praticamente Google è accusato di aver investito un asino in Botswana, in Africa, praticamente perché la grande G difende le auto del suo servizio di mappatura Street View. Praticamente lei dice che l'animale era sdraiato per una bella sabbiatura, ora è vivo e vegeto. Praticamente ci sono state delle denunce da parte della regione africana, perché si pensa che comunque apparentemente l'auto di Google Car abbia investito stasinello. Quindi rinnovo la campagna, come l'anno scorso era Save the Pig, quest'anno Save the Mule. Comunque, ricordando sempre dei pisciclati, il fatto è che ma non è che sia una macchina che è guidata da alcune persone che lavorano per Google, ammazza un asino, Google ha uccide gli asini. Non lo so, gli asini comunque sono un bel animale che un tempo veniva impiegato in Calabria per fare un sacco di lavori, anche i muli, non solo gli asini. Per un animale da trasporto, un bel animale. Che cos'è un mulo? Un mulo è un incrocio tra un cavallo e un asino. È un'asina, forse, non mi ricordo quale dei due. L'asino è il maschio. L'asino è il maschio, altrimenti è un bardotto, il contrario. Lo sapevi? Sei dottissimo, non lo sapevo, ti ringrazio. Sono degli animali straordinari che possono tirare un sacco di roba. sono dei, tipo dei camion, questi muli erano. Sponsorizzato da tantissimo Gesù da Nazareth. Non so se Gesù aveva un mulo, aveva la sinella, però non era un mulo. Quindi è un ibrido, mi dicono, c'è una nostra telespettatrice molto attenta che ci dice che è un ibrido come gli idili architetti dell'Unical. In realtà questi muli sono anche sterili, non penso che gli idili architetti siano sterili, quelli dell'Unical. Quindi non possono procreare e sono, hanno la loro vita dedita al lavoro, come tante persone qui in Italia, al sud, che si ammazzano di lavoro e basta. E purtroppo c'è gente che muore anche sul lavoro, sì. Quest'asino forse è morto sul lavoro, forse stava lavorando per Google. Può darsi, magari, non lo so. Possiamo, quindi lo mettiamo nel database delle vittime del lavoro. È una morte bianca. No, vabbè, scherzando, non scherziamo su queste cose, su questi argomenti delle morte bianche, che purtroppo c'è gente che muore di lavoro, purtroppo... Sono tantissimi i morti in Italia, diciamo, non so, all'estero penso che siano pure tanti. E molti sono anche in nero, quindi non si sanno dove sono morti. Persone che muoiono sul lavoro nemmeno dichiarate, quindi diciamo che se la prendono dal culo e basta questi qua, quando muoiono. Scusate il francesismo. E niente, mandiamo un pezzo ora. Un pezzo di Jimi Hendrix, glielo dedichiamo a Valterino, che lui ci ascolta, lui è da lassù, da Arca Verde. Quindi mandiamogli un pezzo di Jimi Hendrix, Freedom. We'll be right back. Clandestino Cid su Fuori Onda Radio ogni lunedì a partire dalle 22. Si ritorna in studio, ragazzi, una nottata proprio tremenda, piove che a livelli allucinanti. Comunque, volevamo fare un appunto per quanto detto prima, che i morti sul lavoro in Italia sono 3 al giorno mediamente e la maggior parte sono nei cantieri edili, come ci dice il nostro inviato da Livorno, il grande Pier. E un'altra, appunto, ricordando che in alcuni casi i muli e i bardotti, femmine però, possono procreare. Chissà perché le donne sì, gli uomini no. Poi, in questo, chi lo sa? Questa è la natura, che è strana. Questione di cromosomi, XXXY, comunque, variabili. Sono variabili, aleatorie. Vabbè. Ok, no, Peppe, ritorniamo parlando di un nuovo ritorno, il ritorno di Mega Upload, Peppe, perché torna in campo con il Kim Schmidt, con il suo nuovo Mega Upload. Praticamente è passato esattamente un anno dall'arresto di Kim Schmidt, meglio noto come Kim.com, fondatore di Mega Upload, la più grande piattaforma di condivisione di dati del web, che aveva chiuso i battenti dopo una mega denuncia fatti ai danni dell'omone tedesco. E niente, bella notizia, Pep. Qual buon vento, no? Diciamo che la condivisione dei file attraverso internet dovrebbe essere libera. Purtroppo ci sono leggi come questa del copyright che impongono al fatto di dover pagare questi diritti d'autore, che purtroppo rendono la cultura in generale al servizio soltanto della gente che ha i soldi, e la gente senza soldi non può acculturarsi. Vediamolo in questa ottica, il copyright è una brutta cosa. Ciccio. Andiamo un pezzo, non lo so. Sì, a proposito di copyright, comunque fanno sempre un buon uso, no? un uso responsabile. Il prossimo pezzo è dei Big Fish, featuring Caparezza, solo col mic. Sì, per quanto altro potrà durare? Io lo so che prima o poi tutto svanisce e ti ritrovi solo. Solo col mic, solo col mic, come quei necrofili, solo col mic, proprio come Holyfield. Ci vuole orecchio, ci vuole tutto per sfidare il vuoto che da solo col mic. Solo col mic, contro robe d'altri, proprio il mic, come Roger Daltri, talmente forte che prendo il volo e mi ritroverò di nuovo solo. 100 anni di solitudine, con il solitubing rap, cavi Jack, bari squilla il Jack, mi cercavi, fare rap, folle poi, folle oceaniche, Rolling Stone, mi stancula, per fortuna c'è Marie Claire, dammi cash, testami, io crash, testami, non barate negli anni migliori, per fuori dal tunnel ai migliori anni, Bugs Bunny del live, più su del kite, poi giù, fino a che rimango solo col mic, solo col mic. Solo col mic, io credevo di trovare l'oro in clone like. Solo col mic, solo col mic, era il mio ritrovo e mi ritrovo solo. Solo col mic, come quei necrofili. Solo col mic, proprio come Holyfield. Ci vuole orecchio, ci vuole tutto per sfidare il voto che da solo col mic. Solo col mic, contro robe d'altri, proprio il mic, come Roger Daltri, talmente forte che prendo il volo e mi ritroverò di nuovo solo. Mantengo la calma, sì, carta numeri più di una sim, carta con me pure il croupier assassin, carta più credito di carta, sì, ma lo rovescio Agassi, guarda man, sono prezzemolo più del draghetto di Gardaland. Sono primo solo perché tu non mi assecondi, ma che figo, pensi così li scrivo in 30 secondi, non l'avrei detto mai che come Tomb Raider avrei passato la giungla, sì, ma solo col mic. Solo col mic, solo col mic, io credevo tempo di trovare l'oro in Klondike. Solo col Mike, solo col Mike. Era il mio ritrovo e mi ritrovo solo. Solo col mic, proprio come Holyfield. Ci volle orecchio, ci volle tutto per sfidare il vuoto che da solo col mic. Solo col mic, contro robe d'altri. Proprio il mic, come Roger Daltri. Talmente forte che prendo il volo e mi ritroverò di nuovo solo. E Peppe mi diceva che ha tantissimi amici che praticano necrofilia. Li vogliamo salutare, Peppe? No, non ho nessun amico che pratica necrofilia. Non so nemmeno che cazzo vuol dire. Quasi, no vabbè, forse sì. Però, no, non ne ho amici che fanno queste cose. Tu ne hai? Spero di no, perché poi non è che tutti vengono a dirti le proprie condizioni sessuali, no? I propri pensieri, i propri modi di fare. Comunque vorrei salutare Raffaele Morena, Carmeta che ci ascolta dalla Spagna, Raffaele che ci ascolta da Navicchio ogni domenica, l'avvocato da Perugia, il cugino da Petronà e poi niente, il blues, che blues. Passiamo sulla pagina Tutto Green, Peppe. Praticamente per prima in Italia la COP dice no al fegato di oca. Se gentilmente Adrienne ci sta ascoltando ancora, non c'è più, quindi vabbè, mi posso permettere di la negligenza della lingua comunque. Le fegras. Il fegato grasso comunque di oca, praticamente che è uno dei più venduti, anche uno dei più costosi, e niente, vi è una crudeltà che si cela nel processo produttivo di questo alimento, comunque dello sfruttamento animale in primis e poi delle condizioni comunque che vivono queste oche. Ok, che comunque vengono sfruttate anche sul campo della droga per lo spaccio della droga stessa, no? Far ingoiare tantissimi ovuli a queste oche per comunque attraversare le varie frontiere. Se si diffondesse il pensiero di clandestino cide, non nessuna frontiera, salveremo tantissimi animali, quali le foche pure. Peppe. Le oche, Peppe. Anche le foche. Le foche comunque vengono uccise in maniera obbrobriosa proprio. Peppe. Quindi animalisti fino alla fine, noi clandestino egitto. Anche per la carne che preferisce Peppe. In senso, quale senso? No, vabbè, animalisti sì, però fino a un certo punto, poi arriva un certo punto in cui la carne alla fine a me piace, quindi. Però cioè, non è di animali sfruttati la carne che mangiamo noi, quindi penso, alla fine no, non è sfruttata. Quindi se la carne non è sfruttata va bene uccidere un animale per mangiartelo, l'importante non è ammazzare un animale per divertimento, quello è una cosa che non va bene. Alla fine siamo onnivori, quindi per natura dobbiamo mangiare sia carne che vegetali. A me piace ogni tanto mangiare la carne, quindi non mi vergogno a dire che non sono vegetariano, vegano, ma sono onnivoro. Poi sarà un peccato, andrò all'inferno, vabbè. Non lo so, ci andrò all'inferno secondo te? Non lo so, mangi la carne di venerdì? Sì. Allora andrò all'inferno, beh. Ah, ok. Il pesce si può mangiare di venerdì? Non lo so. Chiederemo a qualcuno. Vabbè, dopo chiediamo. Comunque, per non sapere nelle gene scrivere mangio carne venerdì, così poi rischiamo, andiamo all'inferno, ma alla fine penso che là si sta caldi. Meglio all'inferno, c'è una bella grigliata tutto quel fuoco. Però diciamo no alla carne grassa, beh. E sia al frappè, come ci indica Pierpaolo. Infatti, diciamo sia al frappè di pesce spada, che dedicata al nostro amico Pierpaolo, che ne va ghiotto, ricordiamo. Lui è uno dei fautori, del sostenitore più accaniti a livello mondiale di questo frappè, che va bevuto in occasioni particolari e vabbè. Ciccio, vuoi parlare ancora di green situation? Com'era la green? Tutto green? Eh? Sì. Cosa hai da dire tu di scolpa? Di scolpa niente, di scolpa comunque dell'ambiente questa volta, e ci occupiamo di riciclo di vestiti usati e come dare una seconda vita agli abiti. Vabbè, mercatini e i vari negozietti ne conosciamo tantissimi, no? Anche i cassonetti gialli che vediamo nelle varie metropoli italiane, anche qui ad Arcavaca da Beppe. Comunque, niente, c'è un stando un'indagine condotta dall'Università di Copenaghen, un chilogrammo di abiti usati raccolta significa 3,6 kg di anidride carbonica nell'aria, 6.000 litri di acqua risparmiati, uso di fertilizzanti e pesticidi ridotto per migliaia di tonnellate. Quindi Peppe, partendo da un dato di 14 kg di vestiti e accessori consumati in Italia pro capite in un anno, la raccolta differenziata copre una proporzione di 3-4 kg. E quindi diciamo sì al riciclo dei vestiti, e anche per comunque dare una mano, non lo so, sì è più bisognoso, ma a volte nei mercatini dell'usato si trovano anche bellissime cose. Beppe, che ne pensi? Mercatini dell'usato non ci sono stato io, quindi non lo so. Sì, stato ai mercatini della Puglia. C'erano un po' di pulci là dove sono andato, però no, forse una volta a Roma quando ero piccolo mi ricordo di essere stato a Porta Portese, forse può essere. C'era un mercatino là. Hai fatto tipo quella canzone di Gianni Morandi, me lo compri papà? Mi sono comprato un boomerang australiano e certi pupazzetti là, ero piccolo, non mi ricordo mai che facevano, però questo boomerang ancora ce l'ho a casa. E l'ho lanciato in campagna. Ci vuole proprio una distesa enorme per lanciare questi boomerang, perché hanno un ampio raggio di curvatura che comunque ci torna il boomerang. Te sembrava che gli australiani dicevano cazzate, ma in realtà il boomerang torna. Ma ti è tornato in testa? No, è tornato in... Naturalmente non sono riuscito a prenderlo al volo, però hanno bisogno di ampi spazi, ampissimi, come i deserti australiani, dove un giorno andremo noi. A squillaci. col permesso del capotavolo manderei un pezzo. Mandiamo un pezzo di dei Negrito, cioè, transalcolico. Ricordando, che ne so, la transiberiana, forse questo pezzo. Io ricordo la pezza. Ricordo la pezza, va bene. Bebo que cosí mi drogo, bebo tutto quel que trovo, bebo que mo. Siamo tornati qui ancora in diretta, sempre in diretta, solo in diretta, ogni lunedì ore 22, clandestino CID, la trasmissione che non ha confini, non ha nazionalità, non ha nulla, ha solo follia, lo stato puro e tante cose interessanti, tanti ospiti interessanti e tanta buona musica soprattutto, scelta da professionisti della musica, da musicisti e suonatori. Siamo qui, stiamo in chiusura di trasmissione. Ricordiamo che potete scaricare il podcast da archive.org. Andate sul nostro sito fuoriandrade.altervista.org e nella pagina podcast cliccate su sotto clandestina CID, c'è scritto download mi sembra. Andate lì e vi porta sulla pagina dove ci sono tutti i podcast, dove potete ascoltare le puntate dell'anno scorso e le puntate di quest'anno. Che quest'anno siamo giunti alla quinta puntata, che tanti ascoltatori fedeli ogni lunedì ci seguono e noi siamo con loro, noi facciamo musica, trasmettiamo soprattutto anche per loro perché ci credono in noi, gli piace la nostra trasmissione, quindi penso che le piacciono, non ci ascoltavano. Lo spero. Speriamo. ricordando... Niente, non voglio ricordare nulla. Possiamo cambiamo argomento oppure vediamo un pezzo. Ciccio. Possiamo parlare del Giappone? Quindi di nucleare. In Giappone c'è il nucleare, quindi. O terremoto nucleare c'è in Giappone. Quindi se parli dell'Italia, dici ma mafia, mandolino, pizza, Giappone nucleare e terremoti. Vai tu col Giappone, Ciccio, che tu c'hai l'accento più orientale del mio. No, il fatto è comunque che parte dalla scorsa puntata avevamo accennato la questione delle centrali che riapriranno. Tempo massimo fine del 2013 sarà di nuovo nella zona di Fukushima le nuove centrali nucleari. Qui parliamo comunque del pesce. Il pesce che è un alimento prezioso per i giapponesi, è un alimento cardine, come per noi non lo so, carboidrati qual è la pasta, per loro c'è il pesce. Praticamente i livelli di radiazione del pesce giapponese sono allarmanti. Dopo quasi due anni del disastro nucleare di Fukushima, il pescato è altamente contaminato. Nonostante sia passato del tempo, il Giappone ancora oggi si scontra con le conseguenze del terremoto del devastante tsunami che colpì e danneggiò nel marzo del 2011. Però, dato lo tsunami, dato il terremoto, dato le conseguenze nucleari, il governo di nuovo riapre il fronte alle centrali nucleari. Sembra sillogismo, no, vabbè, un sillogismo no, però. Un discorso controverso, se me lo permettete, cioè ti porta tantissimi danni. Quando adesso leggevamo anche che tipo la Germania è pronta a rinunciare al nucleare per comunque energie ecosostenibili, lì ancora si va avanti con l'energia nucleare, con eventuali scorie sul cibo, il cibo che è contaminato, sul problema di smistare le scorie. Non solo il Giappone ma anche la Francia si è interessata molto al nucleare, dato che abbiamo ricordato in precedenza il fatto che nelle zone del Mali, del Mauritania, è ricca di uranio, che diciamo che per l'eccellenza l'uranio è una sostanza molto radioattiva. Sembra che vanno a quello le centrali nucleari, o no? Per forza. Ma vanno a plutonio, saturnio. Impoverito. No, l'uranio impoverito è quello che mandano nelle bombe che sono state ritrovate nei Balcani, mi sembra, dove sono morte tanta gente a causa di questi di questi ordigni. Il Giappone vuole continuare per la strada del nucleare, dopo sia le bombe nucleari lanciate dagli Stati Uniti nei confronti del Giappone, sia dopo il disastro di Fukushima. Diciamo che secondo me è abbastanza... non so come dire, sono un po' kamikaze questi giapponesi, forse. Mi piace tenere le cose pericolose in mano. Va bene. Per fortuna qui. Per fortuna qui in Italia hanno. Il nostro referendum l'abbiamo vinto per la seconda volta. Dopo l'86 è stato vinto. Quando è stato? 2010. 2011. Vabbè, l'ultimo referendum che c'è stato in Italia, ma non mi ricordo l'anno. Vabbè, quello abbiamo vinto e quindi abbiamo detto no al nucleare. Speriamo che anche in altri stati del mondo si rendano conto di questo, della pericolosità di questo, non tanto della centrale, ma delle scorie che vogliono tantissimi anni per essere assorbite dalla natura. Ciccio, mandiamo un pezzo? Andiamo un pezzo di Giuliano Palma e dei Blue Brothers. Anzi, Blues Brothers, per citare qualcuno. I nostri amici blues, mandiamo questo pezzo. Lei è bella, lo so, è passato del tempo ed io ce l'ho nel sangue ancora. Io vorrei ritornare laggiù da lei, ma so che non andrò. Messico e nuvole, la faccia triste dell'America, il vento soffia la sua armonica, che voglia di piangere. Oh, Messico e nuvole, la faccia triste dell'America, il vento soffia la sua armonica, che voglia di piangere. Intorno a lei, intorno a lei, la chitarra risuonerà per tanto tempo ancora. E il mio amore per lei, i suoi passi accompagnerà nel bene e nel dolore. Queste sono situazioni di contrabbando. Messico e nuvole, la faccia triste dell'America, il vento soffia la sua armonica, che voglia di piangere. Oh, Messico e nuvole, la faccia triste dell'America, il vento soffia la sua armonica, che voglia di piangere. Sa come fa quella gente che va fin là a pronunciare sì, sì, sì, sì, mentre sa che è già provvisorio amore che c'è, sì, ma forse no. Oh no, no, queste sono situazioni di contrabbando. Messico e nuvole, la faccia triste dell'America, il vento soffia la sua armonica, che voglia di piangere. Oh, Messico e nuvole, la faccia triste dell'America, il vento soffia la sua armonica, che voglia di piangere. Oh, Messico e nuvole. E dopo il Messico e nuvole possiamo chiudere in bellezza questa quinta puntata della secondo anno di Clandestino Cid, salutando tutti gli ascoltatori, ricordandoci che ci risentiamo lunedì prossimo con nuovi ospiti, nuove tematiche e tantissima buona musica, e sempre con Ciccio, con Peppone, con e chi lo sa chi, qualcun altro ci sarà con noi. Quella sedia è vuota ora perché il nostro amico se n'è andato, ma verrà riempita da qualcun altro lunedì prossimo. Come sei romantico, beh, in chiusura. Speriamo che sia una... che ne so, un blues. Salutiamo di nuovo tutti gli ascoltatori e basta. Mandiamo un pezzo per chiudere in bellezza questa trasmissione. Mandiamo questa qui, Cic. Come si chiama? Questa è praticamente una nuova scena musicale. Sabato sono stato in un locale e c'era un DJ che diceva: tra 4 anni ascolterete questa musica. Musica di merda. Cioè, abbiamo una scena musicale nei locali che fa pietà. Infatti, rinnovo l'invito: non andate a divertirvi, cioè, la sera andando a pagare un'entrata, no? Organizzate dei free party, party con gli amici, no? Feste private, aperte a tutti, quello è il senso, ma almeno buona musica. Questo fa parte del girone della Balkan Beat, Pep, della Gypsy Music. Sì, vabbè, ringraziamo Italo per e buonanotte a tutti. Let's drink водка, смог со мной.